mi era già capitato di incontrare delle ex fidanzate, però lo avevo fatto per caso, in giro, o comunque senza mai organizzarlo. Oppure, se l'avevo organizzato, in mezzo c'era stato tanto di quel tempo che quasi non mi ricordavo nemmeno più come fosse fatta. Giulia invece no. Giulia me la ricordavo eccome. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24 in diretta da Roma, sono Matteo Caccia e sono qui. Ci sono delle persone che non hanno ex. Non hanno ex mogli, ex fidanzati, ex compagni, non hanno ex amanti. Sono le persone che hanno trovato e che si sono fermate. O che semplicemente non hanno cercato e sono partite da lì. Quelle persone conoscono l'amore attraverso gli occhi di una sola donna o di un solo uomo. Non hanno termini di paragone, non hanno storie a cui fare riferimento, non si sono disperate per la fine di una storia e non si sono riaccese per una nuova che iniziava. Sono le persone che quando pensano a se stesse non riescono a non pensare a quell'altro. Ecco, quelle persone lì, quelle di cui sto parlando con tutta probabilità, non comprenderanno oggi completamente il senso di questa puntata. Perché questa puntata è dedicata a tutti quelli che hanno chiuso delle relazioni, che hanno ricominciato da zero, che hanno incontrato persone nuove e ci si sono fidanzate, si sono sposate, hanno creato una famiglia. Però nel loro passato hanno, nella loro memoria, una persona. Una persona che poi tutti chiamano semplicemente ex. Qualcuno che ha condiviso parte del nostro tempo, che ha condiviso parte dei nostri spazi. Qualcuno che in fondo ha contribuito a renderci in questo modo qui, come siamo. Qualcuno che a volte ritorna. Di solito gli amici sono contrari a queste cose, i parenti sono contrari, soprattutto i compagni attuali lo sono. Però in quella sera a cena o in quel caffè nel bar della vostra città in cui lui è di passaggio, giusto qualche ora, c'è sempre qualcosa di evocativo, c'è qualcosa di doloroso, però anche di rivelatorio. Al punto che noi a quella roba lì non riusciamo a rinunciare. Tutti noi prima o poi abbiamo ceduto al fascino di un ex da incontrare. L'ex è la parte di noi che abbiamo rifiutato. È quello che avremmo potuto essere e abbiamo evitato, oppure quello che avremmo voluto essere e non siamo riusciti a diventare. L'ex è come una possibilità scaduta, un modo per ricordare che nella vita si fanno cose diverse, ma non si diventa persone diverse. L'incontro con l'ex è come una partita a scacchi, anzi no, l'incontro con l'ex è come un match di rugby. È una roba in cui la cosa più facile da fare la si ottiene nel modo più difficile, cioè che per andare avanti si passa la palla indietro. E per muovere una pedina bisogna fare mille ipotesi, prevedere centinaia di conseguenze. A volte gli incontri con gli ex sono andati lisci, a volte invece è successo un disastro. Altre ci si è messi insieme e magari ci si è sposati. E oggi vi racconto il mio incontro con la ex. Se volete farlo anche voi, io sono qui. 800240024 è il numero per chiamare in diretta, 349-238-6666, sempre qui anche oggi in diretta da Roma. A Roma c'è una bella giornata, fa un gran freddo, ma soprattutto tutti parlano di ex oggi a Roma, forse è la sensazione che ho, sai quando hai in mente una cosa e ti sembra che lo facciano tutti, anche in metropolitana, venendo qui in Piazza Indipendenza la sensazione era quella. La cosa che vi chiedo però è di non farmi delle teorie. Cioè, non che non mi piacciono le teorie, però la teoria su l'ex da incontrare a cena, no, guarda, succede così, poi si fa così, altrimenti quello pensa così, no. Se vi è capitato di recente, magari, tipo ieri sera sarebbe perfetto, così è proprio fresco nella memoria, oppure se vi è successo una settimana fa, ma anche un anno fa, magari 10 anni fa, però ce l'avete bene presente, che cosa è successo a quella cena, che cosa vi siete detti, cosa è accaduto dopo, se qualcosa è andato storto, se vi ha rovinato la vita, oppure semplicemente è stato come così, una soffiata di vento che è passata e poi se n'è andata. 800240024 oppure 349-238-6666. Su Facebook oggi mi hanno scritto Luca, ad esempio: per me la ex non esiste più. Se invece non è successo nulla e ci si è lasciati bilateralmente o comunque in modo civile, allora è diversa la cosa, evidentemente, Luca. Non è finita in modo civile. Ugo mi dice: a me non è finita bene, mi ha chiesto dei soldi. Tra l'altro, a proposito di soldi da chiedere, c'è il messaggio di Elisa, che ormai tutti conosciamo. Elisa è diventata famosa perché appunto il suo ex l'ha lasciato con 5.000 euro di debiti che lei sta rifondando. No, gli ex vanno lasciati al passato, dice Elisa. Al massimo li si può risentire per svelare che per svelare che dopo che sono svaniti la vita ha preso una piega tutta nuova. L'unico modo per rivedere un ex è potersi vendicare con i fatti. Come? Facendosi vedere sorridenti, strafottenti, sicuri e tranquilli e poi sparire di nuovo. Elisa però mi è già entrata nel teorismo, cioè nella teoria. Io preferirei invece piccole storie come quella di... guarda qua la teoria, guarda qua. Sergio, i cavalli di ritorno sono buoni solo per le grigliate. Basta con le teorie. Ancora, la minestra riscaldata. No, grazie. Tommaso, io rivedo una mia ex molto spesso. Si è risposata con mio fratello. Francesca, quando ho rivisto dopo anni un ex, ma di quelli veri, quelli con cui hai veramente amato, sofferto, condiviso tanto, ho avuto un solo pensiero. R.I.P. Il passato è passato. Ora, Francesca, io credo che questa non sia una teoria, credo che voglia dire qualcosa questo acronimo RIP. Che cosa sta per RIP? Se qualcuno riesce a immaginarlo, 349-238-6666. Ce n'era un altro di messaggio, eccola qua. La mia probabilmente non era proprio una ex, perché quando l'ho rivista, dopo 2 anni che non ci si vedeva, ci siamo rimessi insieme e siamo sposati da 21 anni. 800-24-0024, 349-238-6666. Come è andata a voi, così invece è andata a me. Da quando domenica sera ho detto a Nathalie che ieri avrei incontrato Giulia, la mia ex, in casa non ne abbiamo più parlato. Abbiamo fatto finta di niente e io però non ho capito se nel suo silenzio e nella sua mancanza di attenzione si nascondesse una qualche forma di fastidio oppure no, oppure era semplicemente menefreghismo. Ecco sì, questa è una cosa di lei che ancora devo capire, cioè se è tranquilla o se fa finta di esserlo. Se è una tipa che, ma sì, ma figuriamoci chi se ne frega, oppure no, oppure lo fa con fatica. Comunque, per ieri sera lei si era già presa un impegno, come a dire, ma figurati, tanto io ho già altro da fare. Lei è uscita e io sono rimasto in casa, da solo, pensando a come comportarmi. Cioè, che sapevo quello che dovevo fare, ovviamente, perché ero d'accordo con Giulia che sarei passato a prenderla alle 8 sotto casa sua. Avevo pensato di andarci in Vespa, però ho preferito evitarlo, perché quella posizione lì, quella di due persone sedute su una sella, è troppo intima. C'è una vicinanza che ormai non ci apparteneva più. Quindi preferivo andarci in macchina, che tra i sedili ci sono la leva del cambio e quella del freno a mano, che sono così rassicuranti. Ecco, però, questa della macchina era l'unica cosa che io avevo chiara. Il resto era un'enorme nebulosa. Sì, ovviamente mi era già capitato di incontrare delle ex fidanzate, però l'avevo fatto un po' per caso, no? Per strada, in giro o non so, insomma in qualche posto, però senza organizzarlo. O altrimenti, se invece io l'avevo organizzato, in mezzo c'era stato del tempo, c'era stato dello spazio e quasi non mi ricordavo più nemmeno come fosse fatta quella ex. Giulia invece no, Giulia invece me la ricordavo e come. E non solo perché l'avevo appena vista, ma perché proprio quel giorno in biblioteca, durante quella chiacchierata, erano bastati pochi minuti per ritrovare le cose che ricordavo di lei. E insieme a loro le cose che avevo dimenticato di me. Insomma, era ancora un po' troppo presto per incontrare una ex per la quale avevo venduto tutto. Però ormai era fatta, mi sono messo un paio di jeans e un maglione con sotto una magliettina che mi pareva meno formale della camicia. Poi quando mi sono infilato le scarpe, mi sono accorto che erano veramente un disastro. Le scarpe, dico, erano impolverate, scolorite. Quindi ho pensato che probabilmente era il caso di dargli una lucidata. Una di quelle cose che faccio, credo, una volta ogni 2 anni. Lucidare le scarpe. Proprio per questo motivo, quindi, non mi è mai facile trovare il calzanetto, quello, avete presente, quello che in un unico gesto fa tutto, spolvera, inumidisce e lucida. Mi sono messo a cercarlo, e chiaramente mi sono messo a cercarlo in quei posti dove di solito si infilano oggetti inutili, no? Come quello per me. Quindi ho guardato in bagno, in cucina, nello sgabuzzino, nell'armadio della camera, e poi, inevitabilmente, sono arrivato al baule. Il baule di Barba Blu, quello che Nathalie mi ha sempre semplicemente chiesto di non aprire, e che io non ho mai aperto. Quella sera, però, c'era questo problema, che io avevo deciso di lucidare le scarpe, una cosa che non faccio mai, e quindi ho pensato che io non aprivo quel baule per vedere cosa c'era dentro, ma per cercare il calzanetto. Quindi mi sono inginocchiato, ho appoggiato le mani agli angoli del baule e senza nemmeno concedermi la possibilità di un ripensamento, l'ho aperto. Qualche lettera, 2 libri, maglie, maglioni, un orologio da polso, una catenina fatta su in un pezzo di giornale, un barattolino di gel solidificato, un casco e un paio di scarpe da calcio, di quelle coi tacchetti di ferro, ancora sporche di fango, modello pantofola d'oro. Del calzanetto, nessuna traccia. Mi sono infilato il giubbotto e sono uscito di casa con le scarpe sporche. e con la testa nel baule. Giulia mi aspettava sotto casa. È salita in auto e mi ha chiesto subito se avessi iniziato a fumare. Le ho detto di no. Lei mi ha risposto però che in macchina c'era odore di fumo e prima non c'era. E allora le ho fatto notare che la macchina l'avevo comprata da poco, nuova, però era usata. Ecco, lei mi ha guardato con l'aria familiare di quella donna che non capiva mai le cose che io facevo. E mi ha detto che giusto io potevo vendere e ricomprare lo stesso modello di automobile. Ecco, io lì ho sorriso e ho pensato che era bello che non fossimo più fidanzati. Però era bello anche essere lì con lei in quel momento. Siamo andati in un ristorante ligure a Milano, aperto da poco, proprio per evitare luoghi conosciuti che potessero evocare ricordi di cui in quel momento non avevo alcun bisogno. In realtà non c'è stato bisogno di evocarli, perché non appena ci siamo seduti, lei è partita con un enorme pippone. Una roba che sinceramente non mi aspettavo più. È vero che ci aveva già provato in realtà, ci aveva già provato lo scorso anno, però non immaginavo che fosse ancora così in collera per il programma della scorsa stagione. Mi ha guardato il polso, dopo che mi aveva chiesto l'ora. Si è accorta che non avevo l'orologio. Mi ha fatto una battuta sul fatto che non avessi più addosso quell'orologio che mi aveva regalato lei e che quindi ero tornato ad essere uno di quelli che non sanno mai che ore sono. Poi evidentemente si è ricordata del fatto che l'avevo venduto insieme a tutte le mie cose e lì è partita, come un fiume in piena. Che io ero stato un maleducato, che anche sua mamma si era stupita di quanto fossi stato spudorato nel raccontare in diretta la nostra storia. Che lei ne era uscita come un'arpia e non se lo meritava. Che un giorno addirittura una sua amica che non sentiva da una vita aveva ascoltato per caso una puntata di Vendo Tutto e l'aveva riconosciuta in uno dei miei racconti. Ah, per non parlare poi della storia della tizia, quella con cui ero andato in montagna un weekend senza nemmeno dirglielo. Insomma, l'ho lasciata sbollire per una mezz'oretta e quando è arrivato il primo si era calmata. La cena è diventata quasi piacevole. Ci siamo messi a parlare come due persone civili di quello che c'era successo in quest'anno e mezzo. E quello che era successo in sostanza in quest'anno e mezzo era una cosa. La cosa è che lei vive con il suo nuovo fidanzato, che si sono conosciuti un annetto fa e che si è trasferita subito da lui. Che lui è una persona piuttosto importante, che è un architetto giovane e molto considerato in città, però lentamente lo sta diventando anche nel resto del paese. Io le ho chiesto come si chiamasse e il nome mi è suonato subito familiare, anche se però a lei ovviamente non ho dato la soddisfazione di sapere chi fosse. E ho fatto la faccia dispiaciuta di chi, guarda, non lo conosco, ma non è colpa sua che non è famoso, è mia che vivo fuori dal mondo, figurati. Mentre lei mi raccontava del loft appena fuori città, dove vivono e dove lui ha lo studio, io cercavo di ricostruire chi diavolo fosse sto tizio, perché l'avevo già sentito nominare. Uno di quelli che hanno disegnato un palazzo oppure un monumento moderno della città su cui hanno già pubblicato un libro, quei libri che hanno comprato in quattro ovviamente, però hanno quei titoli tipo Il design spiegato a mio figlio o spiegato a mia madre o a mia nonna. Gente attorno ai 40 anni che perché non è ancora 50 sono considerati giovani e che per questo vengono interpellati dalla stampa su tutto. Sulla politica, sulle scelte della sinistra locale, sugli errori della destra. Quelli che oggi scrivono un editoriale su come il sindaco faccia male a chiudere i parchi e che domani presentano le mostre altrui, come se fossero dei lasciapassare verso il successo, no? Roba che basta una loro parola buona e chiunque entra nell'empireo dello star system. Insomma, proprio il genere di personaggio che mi sta pesantemente sul culo. Io e lei abbiamo mangiato trofi al pesto e totane ripieni, una panna cotta che di Ligure non aveva manco il piattino, e poi l'ho riaccompagnata a casa. La serata era andata abbastanza liscia in fondo, più di quanto pensassi. Poi siamo arrivati sotto casa sua e lei si è messa a cercare le chiavi con la foga che solo le donne hanno quando non trovano qualcosa nella borsa, dicendo che cavolo, lui era a Singapore, se avesse perso le chiavi sarebbe stata fregata. Poi ha fatto un sospiro, ha tirato fuori il mazzo con il solito portachiavi a forma di mezzaluna e con aria leggerissima mi ha detto: vuoi venire su a bere qualcosa? Questo è un test sulla moralità di una persona, se riesce o no a continuare ad essere leale. Di buonanotte e vai a casa. Innanzitutto veniamo a RIP. Allora, requiescant in pacem. In pace, perché è ablativo. No, altrimenti sarebbe... Vabbè, ricordo solo la parola ablativo del latino, quindi la spendo. Oppure anche rest in peace, ovviamente. O altrimenti Raffaele suggerisce RIP. Ripassata, Iedona ripassata. E poi invece, per quanto riguarda la ex, la vera domanda è: perché rivedere una ex, Aldo? Aldo, per diversi motivi. Ogni volta che rincontro una ex ci finisco a letto. Mi sono incontrato con la mia ex casualmente ad una festa in maschera. Mi domando come l'abbia riconosciuta. Dopo 18 anni ero teso. Quello che mi preoccupa è che ho passato una bella serata. Vabbè, però non mi sembra tutto questo problema. Leonardo mi scrive: Matteo, ho due cordoni ombelicali. Una ex è la mia migliore amica. Un'altra è la mia amante. Leonardo, fatti un giro da qualcuno bravo che secondo me ne capisce. Poi Maria mi ha scritto questo messaggio: io ho rivisto il mio ex per 10 anni dopo che ci siamo lasciati. Eravamo entrambi convinti di essere ancora innamorati nonostante i nostri matrimoni e convivenze. Sono riuscita a dire basta solo dopo la nascita di mio figlio, ma in realtà ogni tanto lo penso ancora. Pronto Maria? Sì, pronto. Maria è un nome finto, chiaramente. Ovvio. È giusto per mantenere l'anonimato. Brava, dimmi almeno... Anche qualcuno potesse prendersela male. Certo, dimmi quanti anni ha tuo figlio, però. È molto piccolo, ha qualche mese. Ma voi vi siete incontrati in maniera clandestina, oppure... cioè, per clandestina intendo senza dirlo... Sì, diciamo che io in questi 10 anni... Vabbè, lui si è sposato e ha avuto 2 figlie. Io durante 10 anni ho avuto diverse storie, tra cui 2 convivenze, quindi sì, è sempre stato in maniera clandestina. Ma per quale motivo vi rivedevate, Maria, scusami? Non cioè, per quello lì? Per il motivo per cui stiamo pensando tutti? No, in realtà i primi anni comunque ci siamo rivisti in modo piuttosto regolare, ma non è mai successo niente di fisico, che ci crediate o no. Figura, se me lo dici, perché non dovrei? E invece poi... Invece dopo, insomma, era riscattata la scintilla, diciamo, in modo più passionale. E vivete lontani, Maria? Adesso sì. Prima invece eravamo a pochi chilometri. Che lavoro fai, Maria, nella vita, se puoi dirlo? O se no inventatene uno. Non si può dire, missa. Adesso sono studentessa. Studentessa. Quanti anni hai? 30. Ah, ma sei giovanissima. Parli come se fossi una donna di 50 anni da tutte le esperienze che hai avuto. Ne ho avute parecchie, sono stati 30 anni piuttosto intensi. Piuttosto intensi. Maria, comunque tu ti chiami, ti ringrazio molto. Va bene, grazie a te. Buona giornata. Ciao. La mia ex, l'errore più grande della mia vita, il ricordo peggiore nella mia mente, il periodo più insulso con me stesso, la gioia più grande allontanandomi da lei, repulsione totale per tutta la sua musica, amici, familiari, anche solo incrociarla per sbaglio è un dito nel culo. Adesso la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Ecco, la foto di oggi è proprio una di quelle che mi piace vedere, perché è una foto che non sembra una foto, sembra un po' un libro, e però è una foto, cioè è scattata con una macchina fotografica, in questo caso a un libro. Credo in realtà nello specifico ad una tesi di laurea. Si intravede giusto il numero di pagina, sai quando su Word clicchi inserire numero di pagina al centro, a destra o a sinistra, in questo caso è al centro, e si leggono le ultime 3 righe di questo libro, di questa tesi, di quello che è. Le 3 righe sono... E un ultimo ringraziamento, che meriterebbe un elenco interminabile di nomi e di motivazioni, va a tutti coloro che in momenti diversi della mia vita mi hanno augurato una buona strada. Volevo aggiornarli che per ora il mio cammino mi ha portato fino a qui. Stefano Zanon, 24 anni. Mi sono laureato pochi giorni fa in ingegneria ambientale, con una tesi sull'analisi del rumore del traffico stradale. Volevo finalmente dire a tutti i miei amici che io sono qui. E Stefano ci racconta non solo con che cos'è che si è laureato, ma con il messaggio finale della sua laurea ci racconta molto di più di sé, perché come dice tutti quelli che mi hanno augurato buona strada, scritto in maiuscolo, ci fa capire che è appartenuto alla grande famiglia scout di cui fanno parte a Milano Tiziano Bonini e Paolino Corleoni. Non so se anche Alessandro Chiappini e Gloria Guerrera hanno mai fatto gli scout, direi di no. Gloria sono sicuro di no, a giudicare dall'espressione che ha in questo momento. 800 24 00 24, 349 238 66 66. Niente teorie sugli ex, solo storie di ex incontrati di recente, come ad esempio mi ha chiamato mentre avevo in braccio la mia neonata e mio marito accanto a me dopo 8 anni che non lo vedevo più. Non so come ho fatto a tirare avanti un'imbarazzante conversazione. Luisa. Poi ringrazio chiunque mi abbia scritto, immagino dal Veneto, questo messaggio: se sei salito sei un mona. Io ho rivisto il mio ex per 10 anni dopo che ci siamo lasciati, questa la conosciamo già. Mi sono incontrato alla mia ex casualmente ad una festa in maschera, anche questa ce l'abbiamo già. Niente, sto leggendo i soliti messaggi che non ho cancellato. Andiamo immediatamente a sentire allora, andiamo in provincia di Catanzaro, andiamo da Antonio. Pronto Antonio? Ciao, come stai? Bene, grazie. Antonio, provincia di Catanzaro, mi dici esattamente dove? Lamezia Terme, dove c'è quello splendido aeroporto che sembra una piccola fiera. Sì, una piccola... è proprio quello. Quello che c'ha la copertura rossa come come lo stadio di San Siro, più o meno. Esatto. Ma non stiamo sull'aeroporto, no, c'è stato tempo fa. Non stiamo sull'aeroporto di Lamezia Terme. Andiamo invece incontro con la ex a cena, quando, Antonio? Si parla di 13 anni fa. Quindi, cioè, ce l'hai proprio bello impresso nella mente. Però la questione è un'altra. La questione è un'altra, che la tua ragazza ti dice. La mia ragazza mi dice, no, questa ex mi invita a cena, sì. La mia ragazza mi dice: stai attento che c'è prova. Ok. E io ho detto, ma no. Ma figura, da quant'è che non eravate fidanzati? Con la mia ragazza? Con la tua ex ragazza. Ah, con la ex erano... Da quanto non eravate fidanzati? Ah, eravamo passati almeno un anno. Ah beh, ok, non tantissimo quindi. Senti, come ci ha provato esattamente Antonio? Perché io sapevo che era una cena tra amici, con tanti amici. Invece eravate voi due amici. Eravamo solo noi due più un'altra coppia. Poi l'altra coppia si è defilata. Senti Antonio, invece lei ci ha provato. La tua fidanzata del tempo adesso è diventata moglie o è rimasta fidanzata? No, è diventata la moglie con la quale ho 3 splendide bambine. Va bene Antonio, ti ringrazio moltissimo. Buona giornata. Ciao, grazie. La mia ex ora è una grande amica, mi invita anche a casa sua per serate col suo ragazzo. Tutta vita, Davide. Pronto, Davide? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene. Senti, grazie. Raccontami di queste serate a casa della tua ex. Ma niente, quando organizza qualcosa con amiche, eccetera, mi invita anche me, e gli amici, e facciamo delle serate insieme tranquillamente. Ma tu sei di Lodi o sei di Piacenza, Davide? Tradisco un po' la... sono vicino a Piacenza, però alla provincia di Lodi. Ok, senti, da quanto siete stati fidanzati per capire quanto rilevante è stata questa cosa? No, non tanti, un anno e mezzo. Vabbè, quanti anni hai tu, Davide? Io ne ho 38. Ok, sei fidanzato in questo momento? Adesso no. Vabbè, ci pensa la tua ex, guarda, fatti organizzare una festa e lei ti tira su qualcuna. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Ciao. Andiamo a Bologna da Fabio, pronto? Ciao Matteo, buongiorno. Fabio, ieri sera eri a cena con la ex. Ma guarda, proprio ieri, e adesso ho acceso la radio e ho sentito che parlavi di questo. Mi spiace. Senti, ma perché vi vedete una volta ogni 6 anni? Ma non è 6 anni esatto, è finita nel 93. Allora, sì. Siamo stati insieme 5 anni, poi sì. È finita nel 93. Sì. Siamo rivisti nel 96. Finita a causa di chi? Scusami, Fabio. Sono io il bastardo. Ok, tu sei il cattivo, va bene. Sono io il bastardo, sì. E la cosa buffissima è che tutte le volte che ci siamo visti è successo qualcosa di particolare. Cioè siamo un po' come l'acqua. Cioè, dipende molto dalla gente esterno. Se la sua vita è felice, va in un modo. Se la mia vita è felice, va in un modo. Se siamo tristi, ci lecchiamo le ferite. Non ho capito il paragone dell'acqua. È una roba tipo alla Bauman della società liquida, oppure è proprio semplicemente una cosa di omeostasi? No, è un ho po' detto robe poetica. Che non so, né Bauman né omeostasi, però mi sembrava stessero bene nella conversazione. No, è una cosa un po' poetica. L'acqua sono due molecole, no? Ossigeno e idrogeno. Poi in relazione che cosa c'è attorno cambia. Può essere gassosa, può essere liquida, può essere solida. Insomma, dipende. Senti, un Fabio, po' da che cosa accade. Visto che ieri eravamo nella stessa situazione, io e te, dimmi com'è andata la tua di serata. La mia è andata che è iniziata come la cena degli amici dell'adolescenza. Ed è questa volta è finita come la cena degli amici dell'adolescenza. Cioè, non è successo niente di particolare, tranne grandissimi imbarazzi quando ci si parla, ci si ricorda, ci si vedono le cose. Poi racconti che magari l'ultima volta che vi siete visti lo racconti anche a tutti gli altri, avete fatto l'amore dopo tanto tempo che non ci si vedeva, insomma è piuttosto particolare. Senti, come Fabio, invece poi ti saluto, c'è stata anche in una serata appunto tra semplici amici anche un piccolo frammento di dolore stando con lei o ricordando qualcosa? Guarda, lei non è una ex, lei è la ex, cioè è il primo amore, quindi ogni volta c'è un dolore atroce che pensa alla cazzata che hai fatto a 18 anni e che chissà come poteva accadere, cosa poteva succedere. Quindi tu, anche ieri sera è successa questa cosa. Tu la rivedi, la rivedi ogni 6 anni, perché è come quel regista che mi diceva: io rileggo Amleto ogni 6 anni perché Amleto è un po' la tua ex ragazza, ogni 6 anni ti raccontano una cosa diversa. Fabio, grazie mille, buona giornata. A te Matteo, buon lavoro. Ciao, grazie, alla prossima. Ciao. Lavoro in Germania, ho l'invito per il matrimonio della mia ex, torno in Italia, ci vado? Fabio? No, Fabio, guarda, non lo so, se lo stai chiedendo a me, non sono la persona più giusta. Ho incontrato la mia ex per San Valentino per un gelato. Quanti anni c'hai? È finita che la sera abbiamo fatto l'amore in modo veramente intenso, usando la scusa morale che in fondo c'è amore. Boh, sembra una canzone di Antonello Venditti. Andiamo da Michelangelo da Bologna. Pronto, Michelangelo? Ciao, ciao. Eccolo ciao, qua, ciao. Senti, ciao. Michelangelo, sembra effettivamente un pochettino e non c'è sesso senza amore. Me la spieghi? Quanti anni hai, Michelangelo? 28. Ah, ok. Avete preso un gelato dove? Abbiamo preso un gelato in centro. Stiamo parlando di Bologna, giusto? Sì, sì, di Bologna, di Bologna. Okay. Ti dico, la cosa è così, avevamo voglia di rivederci, non è da molto che è finita la cosa. E quindi così è stata un po' la scusa del gelato. Tu sei fidanzato? Adolescenziale innocente. La scusa del gelato sì, è magnifica, perché non è la banalità del caffè, ci beviamo un caffè e non c'è l'impegno della cena, un gelato che ti dà l'idea che passeggiando, no? Chiaro, è proprio, chiaro, è proprio leggerissimo. Giorno, all'aperto, no? Tu sei fidanzato, Michelangelo? Adesso no. Lei? Lei neanche. Ah, vabbè, allora vale tutto, insomma. Sì, vale tutto. Che cosa fai nella vita, Michelangelo? Oltre ad avere un nome magnifico, che cosa fai nella vita? Faccio il commerciale. Per chi? Venditore, vendo praticamente prodotti della grande distribuzione. Va bene, sì. non andiamo oltre. A Michelangelo, ti ringrazio molto, in bocca al lupo per tutto. Niente, ciao a te. Ciao, buona giornata. Visto che oggi si parla di questo e ci tiriamo un pochettino di mazzate, ti viene sempre pronto all'uso un testo che credo, non so, Tiziano lo sa meglio di me, l'abbiamo usato almeno 5-6 volte, è un testo di Roland Barthes che si chiama Frammenti di un discorso amoroso. Come finisce un amore? Nessuno salvo gli altri lo sa mai. Una specie di innocenza nasconde la fine di questa cosa concepita, propugnata e vissuta come eterna. Qualunque sia la fine dell'oggetto amoroso, dell'oggetto amato, sia che esso scompaia o passi nella sfera amicizia, io non lo vedo neanche svanire. L'amore che è finito si allontana verso un altro mondo come un'astronave che cessa di mandare segnali. L'essere amato, che prima segnalava chiassosamente la sua presenza, diventa tutto a un tratto muto. Questo fenomeno è il frutto di una limitazione del discorso amoroso. Soggetto innamorato, io non posso costruire fino in fondo la mia storia d'amore. Io non ne sono il poeta, il recitante, tranne che all'inizio. Esattamente come la mia morte, la fine di questa storia appartiene agli altri. Sta a loro scriverne il romanzo e narrarne la storia esteriore. Mitica. 349-238-6666. Chi è quel regista che dice di leggere Amleto ogni 6 anni? Guarda, mi correggo, non è che lo legge ogni 6 anni, dice che lo fa ogni 6 anni, però mettilo su Google, magari appare chi è. Io ringrazio come al solito tutti quelli che sono qua nella sede romana di Radio 24, in particolar modo Alessandro Chiappini che è di là dal mixer e Gloria Guerrera che mi accoglie sempre con grande simpatia e professionalità. Ringrazio però anche Tiziano Bonini che è a Milano, ringrazio Paolino Corleoni e Viola Bottoni. Domani riprendiamo, domani vi racconto una storia particolare perché stasera ci sarà una sorta di riunione familiare, quindi come dire, domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?